Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La Hausmutter aprì la porta della camera 42. C'erano due letti, due scrivanie in legno, due armadi, due cassettiere. Mi disse: ecco, questa è la tua stanza. Mi affacciai alla finestra. Un tappeto di nuvole copriva il paesaggio sottostante. Mi chiamo Giampaolo, ho 58 anni, sono un imprenditore, vivo tra Milano e Bergamo, sono sposato e ho due bambini spettacolari, Maria Sole e Teo. Ormai lo abbiamo imparato, ci sono storie di tutti, cioè storie che sono accadute a tutti e in cui quindi ci si riconosce molto facilmente, sono quelle più elementari, quelle che hanno a che fare spesso col diventare una persona, col crescere, col diventare grandi, col avere dei rapporti e con l'essere un uomo, una donna o semplicemente un essere umano. Ci sono storie invece che sono di pochi, ma in qualche modo appartengono a tutti. Le storie che sono legate ad esperienze fatte a scuola, ad esempio, sono storie di tutti. Le storie invece legate ad esperienze fatte nei collegi, negli istituti di qualsiasi tipo, nei pensionati, negli studentati, ecco, quelle appartengono non a tutti, appartengono alle persone che ci sono stati in quei posti, che hanno sperimentato che cosa vuol dire starsene chiuso in una grande casa con 100, 200, 500 persone che hanno più o meno la tua età e vivere in quella situazione, lontano da casa, lontano dalla famiglia. Oggi è il caso di una storia come questa. Buongiorno a tutti, sono le 16. 8 minuti, quasi 9, finalmente di un bel lunedì di aprile, del 15 di aprile. Questa è Radio 24, il programma invece si chiama Voi Siete Qui, e si chiama Voi Siete Qui perché ogni giorno raccontiamo una storia che racconta di un punto su una mappa che stiamo disegnando e che trovate sul sito di Radio 24 alla nostra pagina, la pagina di Voi Siete Qui. Se ci cliccate sopra su quella mappa, c'è scritto proprio Voi Siete Qui, insomma fate fatica a non trovarla, vi si apre una Google Maps sostanzialmente, però in questo è una mappa particolare perché ci sono dei puntini che segnano tutte le storie che abbiamo raccontato e quindi le persone che sono state e che sono protagoniste di questo programma. Giampaolo è il protagonista della puntata di oggi, ma con lui tutte le persone che hanno voglia di raccontare quell'esperienza lì, l'esperienza in un collegio, in uno studentato, come quella di Pietro che dice: dagli 11 fino ai 16 anni sono stato in un collegio bolognese tenuto da preti, oltre alle scuole medie e alle scuole professionali. Ho imparato a fare a botte e anche ad incassare. 349-238-6666, Maurizio, collegio Dal Pozzo di Vercelli. È stato sufficiente un anno per capire tante cose e soprattutto per capire cosa voleva dire essere chiuso un'intera settimana nello stesso posto con le stesse persone, con l'ansia che al venerdì sera il tuo nome non venisse letto per lo scarso profitto o la condotta. Voleva dire il sabato pomeriggio e la domenica a casa. Arriva invece un messaggio leggermente diverso, però ha a che fare con istituti e con luoghi in cui rimani chiuso a forza, contro la tua volontà. Issa Diallo, quindi senegalese, perché mi scrive: in Senegal ho fatto la scuola militare come internato dai 12 ai 19 anni. È un misto tra programma scolastico normale, come per i miei coetanei nel civile, e programma militare dall'altro, tra i quali l'uso delle armi, topografia, paracadutismo. Issa chiude con una bella esperienza. 349-238-6666. Poi mi scrivono l'apostrofo. E vabbè, niente. Uno non può fare un micro errore sul profilo Facebook, che giustamente tutti quanti sono attenti a spiegarti che se è maschile, dopo un non ci vuole l'apostrofo. Però guarda, vi giuro che mi è scappato. Ve lo giuro. Se non mi è scappato, ho tutta l'estate per recuperare. Ci sarà un esame di riparazione su Facebook, no? Diamo un appuntamento su Facebook a tutti in cui mi fate delle domande e io rispondo, magari a settembre, prima di cominciare l'anno prossimo. Oggi si parla appunto di storia di collegio, di studentato, di seminario anche. Insomma, tutti quei luoghi in cui a un certo punto i vostri genitori o chi per loro vi ha preso e vi ha detto: senti, Ninin, adesso noi ti mettiamo qui dentro per qualche anno. Guarda, sarà sicuramente divertente, ti piacerà, studierai meglio. Stai qui, noi siamo a casa, quando vuoi venire vieni. Non era vero che potevi andare quando volevi, dovevi rimanerci dentro, però alla fine quell'esperienza si è consumata e qualcosa ve l'ha lasciato. 349-238-6666 per mandare gli sms. Questa qui che sto per raccontarvi è la storia di Giampaolo. Dalla camera accanto si udì un suono secco, metallico, come quello della vecchia carabina Diana appesa sul letto. Mia madre aveva chiuso la valigia. una di quelle d'incuoio, con la serratura in ottone, le chiavi appese alla maniglia, racchiuse in un piccolo astuccio di pelle. Mi disse: «Sei pronto? Tra poco è ora di andare». Restai immobile sul letto. Non sapevo dove stavamo per andare. Non me lo chiesi neppure. Il tempo e il luogo erano dimensioni che appartenevano ai genitori. È ora di andare a letto, è ora di andare a scuola, è ora di andare a tavola. Non c'era la necessità di sapere il quando e il dove. Misi in tasca un piccolo coltello a serramanico e mi avviai alla porta. Ma penso di essere stato un bambino normale, normalissimo. Rapporti con i genitori buoni, comunque. Anche se erano diversi sicuramente da quelli che sono i rapporti che vedo, almeno che ho io con i miei figli, ecco, ma non per una questione di che sono diverso io rispetto ai miei genitori, ma per una questione di tempi diversi. Avevo 12-13 anni. Il giorno prima mi avevano detto che avremmo fatto una gita. Salii sul sedile posteriore della macchina, una BMW verde bottiglia. Viaggiare in auto con i miei era strano, così come lo stare a tavola o andare a messa. Un po' la sensazione che si prova quando si prende l'ascensore con degli sconosciuti. Era una questione di distanza. Tra me e loro doveva esserci sempre una certa distanza. La strada era lunga e mi appisolai. Al risveglio il paesaggio era cambiato. Dal finestrino dell'auto vedevo scorrere montagne innevate, boschi, case di legno. Non c'era più traccia della città in cui vivevo. L'auto iniziò a salire per una strada stretta a tornanti. Poi si fermò in un piazzale. L'aria era fredda, pungente. C'era una casa grande, in legno e muratura. Davanti, un campo da calcio in terra battuta e dei ragazzi che correvano dietro a una palla di cuoio. Mi venne incontro una signora. Avrà avuto una sessantina d'anni. Un lungo cappotto nero ne nascondeva la magrezza. Mi disse: «Sono la House Mutter, la House Mutter. Vieni, mentre i tuoi genitori parlano con il direttore, t'accompagno nella tua stanza». Salimmo una scala di legno. Gli scalini erano consumati in più punti. Alle pareti di colore giallo chiaro c'erano foto di gruppo di alunni che avevano vissuto in quel luogo. La House Mutter aprì la porta della camera 42. C'erano due letti, due scrivanie in legno, due armadi, due cassettiere. Mi affacciai alla finestra. Un tappeto di nuvole copriva il paesaggio sottostante. Quando sono andato in collegio mi sono ritrovato in un posto di montagna, intanto. Io venivo dalla città. Poi non conoscevo il mio compagno di camera, quindi non sapevo neanche come sarei finito. E per fortuna ho trovato un compagno anomalo, nel senso che era particolare, come sono secondo me un po' tutti i ragazzi che stanno in collegio, o sono particolari quelli i ragazzi o sono particolari le famiglie. Ecco, questa è la tua stanza, mi disse. Quello è il tuo letto. Devi riporre i tuoi indumenti in questo ordine: cassetto superiore le calze, le mutande e le magliette, cassetto di mezzo camicie e maglioni, ultimo cassetto i pantaloni. Farò io le ispezioni per valutare l'ordine della camera tutti i giovedì, prima di ricevere il soldo settimanale. Non ricordo quando salutai i miei genitori. Mi sdraiai sul letto e restai in attesa di conoscere il mio compagno. Di certo non piansi. Accettai la nuova situazione quasi fosse mia da tempo. Ormai sono passati più di 40 anni. Non ha importanza il luogo, gli accadimenti, le persone che si sono succedute. Non sono in grado di dire se in meglio o in peggio, ma quel giorno la mia vita cambiò per sempre. Mio padre è stato in collegio e me lo racconta spesso. Lo fa, credo, perché per lui è stato un periodo bello e divertente della sua vita. La storia, più o meno, è andata così. Mio papà era iscritto a ragioneria, ma non aveva tutta sta voglia di studiare. Un anno si ritira da scuola prima della fine dell'anno scolastico e inizia a lavorare dal Boggiani, che è una piccola azienda che fa dei salumi vicino al paese. Ci sta qualche mese, praticamente fino a giugno, quando si accorge che studiare è sempre meglio che lavorare. Un giorno torna a casa e convince i suoi genitori che lui è fatto per imparare le cose e non per lavorare manualmente. Mio nonno e mia nonna però non sono così convinti e allora lui ha il colpo di genio. Si autoclausura. È un colpo da maestro questo, è che nessuno in famiglia si aspetta. È come se Maradona, davanti alla regina Elisabetta, ammettesse di avere segnato di mano in quell'Inghilterra argentina e si proponesse come raccattapalle per la nazionale inglese per i prossimi mondiali. Insomma, dopo una veloce consulta in famiglia si decide che il luogo migliore per consegnare il giovane Caccia al lato buono della forza è un collegio di montagna, in Valsesia per l'esattezza, a Varallo, ultima cittadina della valle prima di raggiungere il Monte Rosa. In quel collegio mio padre passerà gli ultimi 2 o 3 anni di ragioneria, da cui uscirà diplomato e pronto per il mondo. Ancora oggi mio papà ogni tanto prende la macchina e va a Varallo a cena con i suoi compagni di ragioneria del collegio, cosa che ad esempio non fa con i suoi precedenti compagni di Novara. Non ho mai sentito nessuno parlare bene di un collegio e degli anni che c'è trascorso come lui. Non ho mai capito se sia semplicemente uno che si adegua facilmente alle cose, oppure se lui è stato davvero, se si è divertito così tanto. So che negli ultimi anni in cui si andava a scuola, il collegio è sempre stato uno spauracchio terribile. Il racconto di Giampaolo ne è la dimostrazione oggi. Credo che un'esperienza come questa sia la prima concreta dimostrazione della regola principale del darwinismo. Non il più forte, non il migliore, ma quello che si adatta sopravviverà. Tempo fa lessi la storia di un collegio inglese, quelli, avete presente, quelli iperblasonati, quelli in cui hanno studiato i figli della Gran Bretagna che sarà o che sarebbe diventata, in cui anni fa, in quel collegio, ci fu una rivolta. Gli studenti per la prima volta nella storia di quel college si ribellarono alle norme interne che esistevano da credo più di 150 anni e lottarono per ottenere regole più moderne e secondo loro più vicine alle esigenze odierne e probabilmente anche future di chi frequentava quel luogo. Non andò a finire molto bene e gli autori di quella rivolta furono cacciati tutti. Quell'episodio però trasformò quel luogo in una sorta di laboratorio sociale in cui si studiò come reagisce l'uomo ad una vita basata su regole antiche e conservative. Non so come abbia vissuto Giampaolo gli anni a venire del collegio, visto che la sua storia racconta solo quel primo giorno, il primo approccio con l'ambiente e la Hausmutter. Però, a parte mio padre, quelle poche persone che conosco che sono state mandate in un collegio e lì hanno trascorso una parte cospicua della loro adolescenza, non ne sono uscite proprio serene. Un amico, uno di loro, mi racconta anche di avere degli incubi in cui la notte si sveglia convinto di dover riordinare la stanza per il controllo dell'ordine. Questa storia, la storia di Giampaolo, è anche per tutte quelle persone. Bubblegum and house parties when you stole your parents from and tried to screw everything that could breathe. Back in high school we didn't have a whole lot to do, watch the world go by on television screen. Said it's the 90s, kids, that's way out, this is way, and go beat each other up on the dance floor. Due scuole di pensiero radicali riguardo al collegio, ovviamente da parte di chi ha frequentato un collegio, che sono chi lo ama e chi lo odia e ancora ne porta i segni. Jack da Milano scrive: se avessi saputo prima quanto mi sono trovato bene in collegio quando mio padre mi minacciava di mandarmi, mi sarei fatto mandare prima. E poi invece Vincenzo, pensionato universitario a Milano, la rovina della mia vita è cominciata lì. Ma soprattutto Max da Bergamo, che diciamo è un po' ormai nei nostri cuori, dai 7 ai 13 anni in collegio, dai 18 ai 23 in carcere, ma per tutti sono sempre stato un bravo ragazzo. Max, falegname, sposato e padre. 349-238-6666, si parla di collegio oggi, lo facciamo con Giampaolo che ha scritto la storia e più tardi, dopo la borsa, lo facciamo con un personaggio diciamo abbastanza pop del mondo dello spettacolo italiano, che non tutti sanno è stato in collegio, è Costantino della Gherardesca, ma lui dopo la borsa, adesso invece stiamo con Giampaolo. Pronto Giampaolo? Sì. Eccomi. Come stai? In questo momento dare questa risposta è veramente complicato, però diciamo bene, dai. Dimmi dove sei, così magari capiamo. Adesso sono all'aeroporto, no? Dico in questo momento particolare, perché quando tu fai impresa in un momento come questo, dire come stai è molto complicato. Ah, ok, quindi in questo momento generale, però come adesso minimo ho 3 esaurimenti in corso. Benissimo, quindi sei tra quelli che a breve finiranno. Il primo è quello bancario. Ok, quindi a breve sei tra quelli che finiranno o su un'isola deserta o in un manicomio sostanzialmente, Giampaolo. Esatto, spero per te la prima delle ipotesi. Mi dici che cosa fai come imprenditore? Io ho un'azienda di trasformazione del vetro. E va così male? No, non è che vada male, l'azienda va abbastanza bene, però Al momento diciamo che ho tutto in cassa integrazione, una lotta, insomma, abbastanza complicata. Ma lavori per il pubblico anche? No, pubblico no, lavoro per il privato. Te ne guardi bene, mi sembra di capire, lavorare per il pubblico. Sì, direi di sì, Infatti ogni tanto quando sento la vostra trasmissione dico, ma questi che lavorano per il pubblico, ma chi glielo fa fare? Ma sono 20 anni che si sa che questi non pagano. Senti Giampaolo, vedi che il mondo è fatto così. Dove sei e dove stai andando? Adesso sono venuto a Rio Serio a accompagnare un imprenditore, un mio amico coreano che deve andare a Francoforte. Un amico coreano, sei di Milano però Giampaolo? Io sì, di Milano. Invece dov'era il collegio? Il collegio era a Zugo, in Svizzera. Scusami, Zugo? Zug sarebbe alla tedesca. Cioè quindi il collegio in Svizzera? Institut Montana Zuckerberg. Quindi è proprio lo spauracchio per eccellenza, ti mando in un collegio in Svizzera. Ti mando in un collegio svizzero, bravo. Quanto ci sei rimasto là? In totale ho fatto 6-7 anni, 6 anni. Quindi hai fatto medie superiori? Sì, parte delle medie superiori. Guarda, devo dire che tu sei stato veramente molto bravo a descriverci solo quel primo giorno, perché io è da quando ho letto il tuo racconto che mi dico, sì, ho capito, ma poi come è andata a finire? La Hausmutter, cosa è successo? È morta di anoressia? Cosa le è successo? No, ma che la Hausmutter è sopravvissuta, felicemente. Che tipa era poi? Io la facevo diventare matta, perché poi... Che tipa era frequentandola tutti i giorni, la Hausmutter? Guarda, era una secchetta tosta, nel senso che era di quelle rigorose, e riferiva tutto al capo casa, che era un certo Herr Dier. No, scusami, ma sembra veramente Oliver Twist, il capo casa. Sì, il capo casa, esattamente. Invece... c'era il capo casa, no? E poi c'era lei, che era l'Hausmutter, che era quella che seguiva. Però ogni casa aveva il suo, cioè tu partivi da quelli piccoli che stavano alla Juventus, poi andavi al Felsen che facevi gli Mets, poi andavi alla Grosse Saus, che era quella grande, poi andavi allo chalet l'ultimo anno. Lo chalet, lo chalet era spaziale. Ah sì? Sì, sai quelle case, quelle baite tutte in legno, fatto Svizzera. Ma esiste ancora questo collegio? Ah, sicuramente sì. Non sarà più come quando ci stavo io, perché nei tempi era ruspante l'ambiente. Perché Giampaolo ti sei infilato un coltello a serramanico in tasca prima di partire? Ma me lo sono infilato perché era così, era un oggetto con cui io giravo sempre. Ah, ok, perché era, non è che... era il mio, perché non potevo portare altro, no? Cioè non è che potessi portarmi il Flober, la Diana o che so. Certo, era come andare su un'isola deserta a doverti portare il minor peso possibile. Quello ci porto, porterò sto coltellino, lo metto in tasca, andiamo a farci sta gita, vediamo com'è. Poi dopo ho capito com'era il meccanismo. Ecco, perché una cosa diciamo che è da chiarire per tutti quanti, sì, è che il tuo racconto ci è arrivato con un titolo che era Una gita, giusto? Sì. E poi abbiamo capito appunto che di fatto i tuoi genitori ti hanno detto ti portiamo a fare una gita e ti hanno portato in un collegio svizzero. Sì, nel senso che avevate un buon rapporto. No, ma perché non è come adesso, no? Adesso io ho due bambini piccoli, sì, quando devo andare a comprare un paio di mutande a questi due, sì, mettono in piedi un gibilè che è metà basso. Ripeti, mettono in piedi un gibilè, come si dice a Milano, mettono in piedi un gibilè della Madonna, per cosa? Per sapere dove vai, chi va, come devi comprarla, cosa devi comprare. Ai nostri tempi, ai miei tempi almeno, ti prendevano, ti portavano lì, chiuso il problema. Certo. Era diverso un po'. Giampaolo, mi ti ricordi quanti anni hai, perdonami? Adesso ne ho 58. Perché tu hai un tono veramente che un po' deve essere la milanesità, un po' la situazione che stai vivendo, che sembra che tu abbia un distacco dalle cose magnifico, come se ti fregasse di tutto e ti fregasse anche un po' di niente in realtà. Ma è probabile, è sempre stato così. Secondo me è stata un po' la reazione a questo fatto. Ecco, infatti, e poi ti devo salutare. Che ti è creato, secondo me, una spaccatura netta, no? Con questa storia, perché poi è rimasta così. Io ad esempio non sono più rimasto affezionato alle case, casa mia, posso cambiare 30 case che proprio non importa. Quindi in questo modo ti ha segnato il collegio, il fatto di non avere attaccamento alle cose? Alle cose sicuramente, poi è un po' anche nei rapporti familiari, nel senso che io per carità dal punto di vista affettivo ho voluto sempre molto bene i miei comunque, al di là di questo fatto. Però in collegio ti abitui a fare tutto da solo, nel senso, ti viene un coccolone, ti viene la febbre, hai l'influenza, non hai studiato, devi non sei tutto preparato, certo, non ti puoi appoggiare, prendi e devi andare in classe. Giampaolo, devo salutarti, i tuoi genitori sono ancora vivi? Mia mamma sì, fortunatamente. Allora, purtroppo no. Va bene, salutiamo a lei allora. Giampaolo, grazie mille, in bocca al lupo. Ciao. In gamba erano anni che non me lo sentivo dire. Giampaolo il migliore. Voi siete qui. Secondo me si vede che Giampaolo è stato segnato dal collegio anche dalla foto che ci ha mandato e che trovate sempre sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi siete qui. Nel salotto di casa propria, nell'angolo di destra si vede un albero di Natale, quindi siamo sotto le festività natalizie, e sembra uscito da una poltrona per due o da una qual è l'altro? Mamma ha perso l'aereo. Comunque sembra stare in un tempo, in un luogo sospeso tra Inghilterra, Svizzera, Stati Uniti e il centro di Milano. Giampaolo con tutta la famiglia, moglie, una bimba, 1, 2, 3 cani, di cui uno un San Bernardo, un tappeto persiano a terra, e lui continua a essere, secondo me, il migliore di tutti. Collegio. Sostantivo maschile. Insieme di persone fisiche con eguali poteri per l'esercizio di determinate funzioni amministrative, giudiziarie, direttive o di rappresentanza. Comunità scolastica organizzata nell'ambito di un convitto. Arcaico, comunità, adunanza. Etimo, dal latino collegium, insieme di colleghi. Data, secolo XIV. Ebbene sì, si parla di collegi oggi, o di studentati, o di pensionati, quei luoghi in cui in qualche modo ci siete arrivati perché qualcuno vi ha portato, come la storia di Giampaolo di oggi. Qualcuno mi scrive: io dopo 4 anni sono stato cacciato da tutti i collegi d'Italia. E poi ancora, mia nonna ha sempre dato la colpa al collegio per tutti i fallimenti della sua vita. 349-238-6666, se avete un profilo Facebook è sempre quello lì. Voi siete qui, Radio 24. Io però mi ricordavo di averne parlato con lui tempo fa, con la persona che sto per presentarvi adesso al telefono, del fatto che lui era stato in collegio, in più di uno in realtà, e in qualche modo la sua vita era stata segnata. Se fossimo ad un programma del televisivo del pomeriggio per signore, lo presenteremmo probabilmente come un personaggio eclettico e senza peli sulla lingua. A noi piace invece immaginare che lui sia l'unico vero personaggio pop della scena spettacolare in Italia in questo momento, ed è Costantino della Gherardesca. Pronto Costantino? Pronto Matteo. Come stai? Ti ringrazio. Io bene, bene. Dove ti trovi? Stai lavorando, immagino. In questo momento sì, sto scrivendo una cosa e sono in casa e tra un po' vado in degli studi televisivi. Bravo. Costantino, andiamo là. Andiamo a quel periodo in cui tu mi hai scritto boarding school, collegi svizzeri. Che differenza c'è tra una boarding school e un collegio svizzero? Assolutamente nessuna. I collegi sono delle boarding school. Ah, ok. E già questa è una notizia. Sì, ti racconto la mia storia. Diciamo, ti prego, così. Ti prego. Ecco, il primo collegio dove sono stato avevo 9 anni, era nella Svizzera tedesca, era un collegio canadese. E tu aspetta, Costa, tu da dove arrivavi? Dalla Toscana o da Milano? Io arrivavo dalla Toscana, sono nato a Roma, poi sono nato in Toscana, ho fatto la scuola statale. Ok, e a un certo punto ti spediscono in Svizzera? Sì. Perché mia madre andava in giro, insomma non volevano che stessi troppo con mia madre, diventassi mammone, diciamo. Ok. E quindi mi hanno mandato in Svizzera per avere anche un'educazione un po' più rigida. Però in realtà quello dove sono andato a 9 anni, l'inizio era un po' triste perché mi mancava la mamma e volevo essere in famiglia, eccetera. Beh, eccetera. A 9 anni è immaginabile anche, no? Insomma, esatto. Sono pochi 9 anni. Come si chiamava il collegio, ti ricordi? Si chiamava John F. Kennedy. Ah, quindi eravamo già su proprio di riferimenti presidenziali, direi. Sì, sì. E lì rimani poi, quanto? E lì rimango, ero felice, mi facevano fare sport che non avevo fatto in Italia, ero esposto a gente di tutto il mondo, libanesi, nigeriani, americani, giapponesi. E che lingua parlavi, l'inglese o il tedesco? Parlavo l'inglese. Perché tu già a 9 anni l'inglese... A quell'età l'ho imparato in pochi mesi. Ah beh, ok, quindi l'hai imparato lì, insomma. Però tu sei arrivato in un posto a 9 anni che non conoscevi in Svizzera e ti sei trovato a parlare inglese. Sì, okay. Però per siccome credo che i bambini lo imparano prima l'inglese, no? Io già in un mese e mezzo eri già a posto. Sì. Quindi poi rimani lì e poi? Rimango lì, già però alle medie incomincio ad avere interessi in più rispetto ai miei amici in Italia. rispetto ai miei amici in Italia, no? Sì, perché ho risposto certo a molte più cose, okay, eccetera, eccetera. Quindi c'erano dei lati positivi del collegio. Okay. Dopo di quello, però, ahimè, mi hanno trasferito in una specie di collegio di destra, sempre in Svizzera, nella Svizzera francese, però. Scusa, perché esistono collegi di sinistra, Costantino? Sì. Ah. Sì, adesso ti racconterò. Adesso mi hanno mandato all'inizio del liceo, diciamo, sì, un collegio di destra, un po', diciamo, militaresco, dove c'erano dei premi, tipo il premio Duca di Edimburgo per... no, molto British. Sì. In base a cosa lo vincevi il premio Duca di Edimburgo? Ovviamente io non l'ho vinto. Quegli anni lì sono stati un po' i più brutti della mia vita nel collegio, diciamo, British di destra. Okay. I professori si erano accorti che ero omosessuale e anche alcuni studenti più grandi e un po' mi bullizzavano, no? E beh, immagino, però, non gli faceva proprio piacere, insomma, questi. No, però okay, io in quel momento mi sono fatto forza. Ah. E diciamo gli ho dato filo da torcere, no? È stata un'esperienza formativa. T'ha un po' fortificato sta roba, dici? Mi ha molto fortificato, mi ricordo una volta mi hanno fatto correre a piedi scalzi sulla neve, un'altra volta non mi hanno fatto uscire per 3-4 mesi dal collegio, neanche a vedere mia sorella. Ah, roba seria, quindi. Sì, era molto spiacevole. E dopo di quello però sono andato in un collegio di, diciamo, di sinistra. Esistono anche collegi di sinistra, in realtà è un collegio hippie, molto liberal, in Inghilterra, nello sì, Hampshire, dove ho finito il liceo. Sì. Uno degli alunni era Daniel Day-Lewis, che aveva imparato a fare falegnameria in quel collegio. Ma anni prima, quindi, però, ovviamente. Anni prima, sì. E c'era qualche oggetto, lavorato in legno da Daniel Day-Lewis? Sì, assolutamente sì, non solo, ma tornava, è tornato anche un paio di volte quando ero lì. Mi ricordo, ed era già un attore, uomo, no? Era un bellissimo uomo che aveva problemi di depressione e cose simili, che, di cui lui ha anche parlato, no, nel sì, giornale. Sì, ogni sì, volta sì, che fa un ruolo poi ha delle sta male, si deve ripigliare. Sì. Sì, sì. Quindi lì quanto sei rimasto nel collegio hippie? Lì sono rimasto 2 anni, avevo 16, 17, 18 anni, sono stati gli anni più belli della mia vita. Cioè sei passato, Costantino, dagli anni peggiori ai più belli in un attimo proprio, e sempre grazie a dei collegi, sì, di fatto. Sì, perché mi aveva fortificato il collegio fascista, poi sì, mi hanno mandato nel collegio hippie e per me era nulla. E a quel punto hai capito anche, diciamo, da che parte politica volevi stare sostanzialmente? Sostanzialmente anche sì, in realtà, perché quel collegio fascista mi ha veramente segnato la vita. E a quel punto la tua vita di collegio è finita però, giusto? Quanti anni avevi? La mia vita di collegio, siccome ero diventato maggiorenne, era finita, non dovevo più stare in boarding, cioè essere affidato a nessuno, e quindi sono andato a vivere da solo a Londra, dove ho fatto l'università. E ti sei laureata in cosa alla fine? In filosofia. A Londra, giusto? Filosofia, specializzato in etica biomedica. Costantino, guarda, ti terrei ore, però devo chiudere. Mi dici in una frase che cosa ti ha lasciato l'enorme esperienza di collegio che hai fatto? Io sono molto favorevole ai collegi perché mi ha lasciato amicizie in tutto il mondo, ho visto tante cose, ho conosciuto tante persone, mi ha aperto la mente e mi ha reso molto più indipendente. Costantino, io spero di vederti molto più di frequente in TV, in giro, alla radio, sui giornali, perché ti meriti molto di più tutto e molto di più di quello che stai facendo. Ti ringrazio, in bocca al lupo tantissimo per tutto. Ciao Costantino, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. 349-238-6666. Questa era tosta come esperienza, perché non era un unico collegio, Costantino se ne è fatti 3 diversi di fatto, tra cui uno di destra e uno di sinistra, in totale quasi 10 anni della sua vita. Continuiamo a parlare di collegio, anzi direi che finiamo a parlare di collegio perché abbiamo chiuso. Qualcuno mi scrive: vale l'Accademia Militare? Certo valeva qualsiasi cosa che fosse in parte un po' coercitiva. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Roberto Scaltritti, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Grazie soprattutto a Giampaolo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.